Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Amore, ti ho fatto una sorpresa. Ci risiamo, hai portato un'altra volta a cena qualche tuo amico senza avvisarmi. No, sorpresa, è Tic, l'automa perfetto. Buonasera, tanti omaggi. Ma tu sei un incosciente a portarmi a casa un marziano. Io non essere marziano, ma Tic l'automa. Tic da questo momento sbrigherà per te tutte le faccende di casa. E io lo sapevo che facevi. Mettilo alla prova. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica. Avete appena ascoltato uno spot di Candy del 1962, uno spot di Carosello. Lì c'è l'automatic, il robot che entra servizievole in casa e poi a un certo punto dice: forse bravo sono stato, posso fare anche il bucato? Ma la casalinga, interpretata da Xenia Valderi, mentre il marito è il mitico Aldo Giuffrè, gli dice: no grazie, c'è Candy. Ecco, e questo tra l'altro ribadisce il fatto che, come ho detto tante volte in questa trasmissione per parlare di robot, la lavatrice in fondo è un robot per lavare. Comunque, in quegli anni la brianzola Candy, come altre grandi marchi a cominciare da Indesit e dei Merloni, entrava nelle case di milioni di italiani per restarci fino ad oggi. Allora proponeva il meglio della tecnologia e oggi fa altrettanto con gli elettrodomestici interconnessi di cui diremo in questa puntata. Oggi anzi Candy, la brianzola Candy, è l'unico marchio made in Italy ad essere rimasto indipendente italiano, l'unico, ed è ancora all'avanguardia. Il nostro ospite di oggi è Aldo Fumagalli, che è esponente della terza generazione della famiglia e che nei giorni scorsi ha in conferenza stampa presentato un piano industriale pazzesco. Cioè, voi pensate, oggi la Candy con tutti i suoi marchi fattura circa 1 miliardo di euro, loro promettono nel 2021 di arrivare a 2 miliardi di euro. Inoltre vogliono rafforzare ciò che già hanno, cioè la leadership europea negli elettrodomestici interconnessi, gli elettrodomestici che tu puoi guidare da remoto con una app. La gente pensa che magari i leader sono quelli di Samsung, invece i leader sono italiani e sono la brianzola Candy. Per fare questo l'azienda investirà circa un centinaio di milioni di euro, che non sono pochi. E c'è una tesi molto forte che nel futuro il valore aziendale dipenderà dal numero di utenti connessi. Comunque ne parliamo con il nostro ospite di oggi, che è Aldo Fumagalli, il presidente. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, insomma, obiettivi ambiziosi, caspita, raddoppio del fatturato, non è un fatturato di bruscolini, da 1 a 2 miliardi di euro, ma come pensate di farlo? Sì, effettivamente la famiglia si dà un obiettivo molto ambizioso e proviene dall'estrapolazione dei trend avuti fino adesso. Siamo la marca che cresce di più in Europa, più del triplo della media dei nostri concorrenti, e quindi in qualche modo, proiettando questi trend, arriveremo a questa velocità. Grande aiuto verranno dagli elettrodomestici connessi, come lei ha citato. Ecco, in effetti Candy è il gruppo con la crescita più veloce in Europa. In 2 anni la quota di mercato di Candy è aumentata del 25%, pensate un po'. Ma ne parliamo nella seconda parte della trasmissione, dopo avvisi sul traffico e varie ed eventuali. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Aldo Fumagalli, che è il presidente della Candy, che, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è il maggiore marchio italiano di elettrodomestici. Punta nel giro di 5 anni a passare da 1 a 2 miliardi di euro di fatturato e alla leadership europea negli elettrodomestici interconnessi. Aldo Fumagalli ci stava spiegando come sarà possibile questo raddoppio di fatturato nel giro di 5 anni. Raddoppio del fatturato viene proiettando i numeri che abbiamo e le crescite che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, quindi è, diciamo, una crescita che noi vogliamo essere organica, fatta sulle nostre marche e sui nostri prodotti, sfruttando le leve che ci hanno permesso di essere i più rapidi nella crescita, i più veloci. Ovviamente noi non siamo dei giganti, quindi siamo 14esimi al mondo in termini di produzione di elettrodomestici e quinti in Europa. Abbiamo un gap rispetto al leader significativo. Chi è il leader europeo nella produzione di elettrodomestici? Esatto, che è il gruppo Whirlpool al momento. Che è quello che ha comprato la Indesit dei Merloni. Esatto, e che quindi ha purtroppo tolto un gigante italiano dalla scena mondiale. Come lei ha detto, noi rimaniamo gli unici italiani in un comparto, mi lasci dire, che ha sempre visto l'Italia al primo posto. Noi e i tedeschi abbiamo fatto chiudere tutte le altre aziende fra il 1980 e il 2005, ecco, quindi in qualche comunque modo... Sì, siete molto cresciuti. Ho visto che nel 2016 il fatturato è aumentato del 10% e il margine operativo lordo è aumentato addirittura del 40%. Esatto, sono crescite che ci portano a, ripeto, a essere i primi della classe in termini di crescita, e dobbiamo insistere su queste leve. La connettività e i prodotti connessi sono una delle principali leve che stiamo sfruttando al momento. Ecco, lei ha fatto un'affermazione molto forte in conferenza stampa. Ha detto che in futuro il valore di aziende come la vostra dipenderà dal numero di utenti connessi. Questo è nel 2013, facendo queste riflessioni col vertice aziendale, ci siamo detti che il destino degli elettrodomestici non è relegato a essere scatole bianche nei nostri bagni o nelle nostre cucine. Il destino degli elettrodomestici è un destino di relazione con il proprio consumatore. Gli elettrodomestici faranno e guideranno quello che il consumatore delegherà a loro fare. In qualche modo c'era un futuro, e c'è, noi vediamo, insistiamo in questa visione, un futuro dove l'elettrodomestico prende dei compiti casalinghi, non saranno quelli del robot della pubblicità, però prende una posizione in casa che è diversa da quella di oggi. È Senta, chiaro, ma esiste già la lavatrice interconnessa? Assolutamente, le lavatrici connesse noi le vendiamo dal 2014, sono connesse e si connettono alla app che ne guida l'utilizzo attraverso il wifi di casa, quindi quello che lei deve fare quando compra la lavatrice fa la registrazione della sua lavatrice sul wifi di casa, e attraverso la sua app le è consentito di guidare la lavatrice da qualsiasi parte lei tenga il suo smartphone, quindi se lei o sua moglie è in ufficio e sta lavorando, nel frattempo la lavatrice sta lavando a casa, quando la lavatrice avrà finito di lavare, lei riceve un SMS della lavatrice, anche un WhatsApp, giusto, perché mi mancano il numero di WhatsApp che ricevo, ci manca anche che WhatsApp con la lavatrice. Però anche se io lo so, siccome non c'è nessuno in casa che ricarica la lavatrice che stende, cosa me ne faccio di questa informazione? Beh, si vede che lei usa poco la lavatrice, credo, perché il dramma delle casalinghe è che il lavaggio è finito, i panni umidi stanno nel cesto e poi diventano puzzolenti. Non voglio dire questa parola, è sicuramente più difficile da stirare, quindi lei, se vuole, può in maniera remota azionare dei comandi che permettono al cesto di continuare a girare e raffrescano la biancheria fino a quando lei tornerà a casa e in qualche modo ne potrà disporre nella maniera che vuole. Ecco, io ho visto qui i dati della vostra conferenza stampa dove parlate in 2017 220.000 utenti connessi e invece 2019 1.5 milioni di utenti connessi. Ma sono quelli vostri o quelli di tutta Europa questi numeri? No, sono quelli che noi pensiamo essere i nostri clienti connessi. Cioè, voi avete già 220.000 clienti che hanno l'app sul telefonino con l'elettrodomestico connesso? Certo che sì. No, in questo accidenti! Momento, sì, in questo momento, prendendo un tasto, le posso dire quanti di queste lavatrici stanno in questo momento facendo un qualsiasi programma e che cosa questo parco molto grosso di lavatrici stanno facendo. E non sono solo lavatrici, sono anche forni, lavastoviglie, frigoriferi, perché il nostro successo dipende dal fatto che siamo stati i primi a presentare una gamma completa di elettrodomestici connessi, che si guidano con una sola app. Senta, ma come mai voi siete l'unico marchio rimasto indipendente? Come si spiega questo fatto? Ma questo non dovrebbe chiederlo a me, dovrebbe chiederlo agli altri. Però nel tempo diciamo due cose. Uno, la parte di industria italiana elettrodomestici era veramente favolosa negli anni 70-80. Era il nostro punto di forza insieme all'auto. Bravissimo, il secondo comparto industriale italiano, tutto funzionava bene, la filiera era fantastica, tra l'altro filiera che è rimasta in piedi, i migliori fabbricanti di apparecchiature per la produzione di elettrodomestici erano in Italia e lo sono tuttora, la componentistica in gran parte italiana. E poi questa azienda ha fatto gola ai grandi giganti americani e non, che in qualche modo, guardando l'Europa, hanno scelto l'acquisizione italiana come una maniera per diventare grandi qui. Allora la Philips comprò Borghi, la grande Philips, la Philips di 20 anni fa. E poi Philips, tra l'altro, negli elettrodomestici è anche scomparsa. Ha venduto a Whirlpool, quindi che era più grande di loro. Quanto così conta per voi, mi scusi se la interrompo, ma purtroppo il tempo è tiranno, quanto conta per voi essere in Brianza, essere brianzoli? Veramente è una domanda che non so, però le rispondo in una maniera indiretta. La leadership sulla connettività è una leadership che magari non è brianzola, ma è sicuramente lombarda. Quando io la spiego che è un successo della Brebemi. Pensi che a Brescia abbiamo il nucleo che si occupa di intelligenza artificiale, a Bergamo facciamo l'app, che è fondamentale in questa economia, e qua a Monza poi alla fine facciamo il prodotto. Quindi sulla Brebemi. Quanti dei vostri elettrodomestici sono prodotti in Italia e quanti in paesi asiatici a minor costo del lavoro? 8,5 milioni di apparecchi che vendiamo ogni anno, solo 320,000 sono prodotti in Italia, quindi l'Italia è, ahimè, marginale ormai nel nostro tessuto industriale. Però forse questa scelta vi ha consentito di essere quello che siete e non di deteriorare la redditività e poi essere costretti a vendere. Questa è almeno come abbiamo impostato l'azienda, sì, è una questione di sopravvivenza. Ma quanto è una questione di costo del lavoro e quanto è una questione di costi di trasporto e di logistica, per cui se lei vende in Germania conviene essere in Germania, se lei vende in Russia conviene essere in Russia, e quanto è una questione proprio di costo del lavoro che non è competitivo nei paesi occidentali? Ovviamente non è una questione isolata al costo del lavoro, il costo del lavoro è uno degli elementi, secondo me non è quello preponderante, in realtà è l'insieme della supply chain, chi fa elettrodomestici monta componentistica, prende della lamiera, la piega, fa questo tipo di lavoro, e quindi il costo di queste materie, componenti e tutto l'insieme, se in Cina costa meno, costa meno. Poi è anche una questione di costo energetico. Esatto, l'insieme dei fattori produttivi, dove, le ripeto, il lavoro non è determinante, se no saremmo tutti in Romania a fare elettrodomestici, così non è, purtroppo ci sono dei grandi... Ecco, io credo che sia molto importante il costo dell'energia. Assolutamente vero, pesa per il 12% nel totale dell'economia. E noi abbiamo l'energia più cara d'Europa, che è pari al doppio del costo della Francia, per dirne una. È 6 volte quello che paghiamo nel nostro stabilimento in Russia ed è 4 volte quello che paghiamo nel nostro stabilimento. Quindi nel produrre un elettrodomestico il 12% energia, e quanto è il lavoro? 12% quando cumulo il mio contenuto di energia insieme a quello dei miei fornitori. Quindi ecco, invece il contenuto di lavoro quanto incide? Un'ora di trasformazione, quindi a Brugherio 28 euro, in Cina. Ecco, ma quindi in percentuale euro. Su una lavatrice il lavoro è? 20%. 20% lavoro, 12% energia. Bene, io parlerei con lei per delle ore, ma il tempo giunge al termine e noi che siamo tifosi delle fabbriche, tifosi della manifattura, tifosi dell'acciaio, e non dimentichiamo che le lavatrici, frigoriferi, forni si fanno con l'acciaio, siamo anche tifosi vostri. Saluto Aldo Fumagalli, arrivederci, anzi a risentirci. Arrivederci. E saluto tutti gli ascoltatori, ci sentiamo sabato prossimo.